Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e nella scorsa puntata vi ho parlato dell'ametista e oggi vi parlerò del quarzo maestro e come usarlo. Il quarzo maestro è il quarzo ialino con delle punte. Detto così è molto riduttivo, ma tra poco approfondiremo. Non devono avere questa forma per via di uno stravolgimento totale da parte dell'uomo, ma è necessario che siano formati in questo modo oppure siano stati tagliati, ma sempre lungo il lato della crescita. Il quarzo maestro deve avere sei facce, ma è in base alla loro disposizione che cambia il tipo di cristallo. Il quarzo maestro ha delle proprietà molto interessanti in cristalloterapia. Per comprendere meglio questo argomento dobbiamo però approfondire e parlare perciò dei vari tipi di quarzo. Quarzo maestro arcobaleno è chiamato in questo modo perché quando la punta viene colpita dalla luce si forma come un arcobaleno. Questo avviene per le fratture interne che permettono appunto di scomporre la luce. Viene utilizzato per equilibrare tutti i sette chakra e i sette strati dell'aura. Vi consiglio di provarlo anche in meditazione. Dona gioia e amore. Utilizzatelo se siete tristi e malinconici, oppure se avete perso tutta la vostra energia. A livello fisico combatte il gonfiore e riduce anche il colore. Quarzo maestro biterminato. Se il quarzo maestro arcobaleno possedeva solo una punta e una base piatta, il quarzo maestro biterminato ha due punte all'estremità, entrambe emanatrici di energia. Viene quindi usato per collegare due chakra tra loro durante i trattamenti oppure per collegare due pietre. Nei trattamenti di cristalloterapia è uno dei più usati. Porta equilibrio tra il mondo materiale e spirituale. Rimuove i blocchi energetici. Indossatelo quando dovete esprimermi in modo chiaro. Quarzo maestro fantasma è uno dei miei preferiti perché non è trasparente ma lattiginoso. E all'interno ci sono tanti piccoli cristalli che ne mostrano la fase di crescita. Usatelo in meditazione se avete bisogno di scavare dentro di voi, nelle vostre vite passate oppure nei ricordi ormai sepolti. Vi aiuta a trovare la forza e il coraggio di accettare il passato così da andare avanti. Quarzo maestro generatore. Il quarzo generatore potenzia l'energia e la ritrasmette. Viene utilizzato proprio per portare energia là dove c'è bisogno, ma va maneggiato con molta prudenza. Fortifica i nervi e stimola la concentrazione. Quarzo maestro tabulare, sembra un cristallo piatto a causa di due facce molto più larghe delle altre. Serve proprio per trasferire molta energia da una parte all'altra. Il maestro tabulare può essere anche biterminato, in questo caso viene usato per equilibrare l'energia tra due chakra. Potete usarlo se volete per conoscere in modo molto più profondo voi stessi. Quarzo maestro cattedrale, piuttosto diverso da questi visti finora perché comprende varie parti, da tutte tenute legate da una matrice di un cristallo madre. Produce come una spirale lungo i lati dove vi sono cristalli più o meno grandi, non uguali tra di loro. Potete trovare in commercio bellissimi quarzi maestro cattedrale di fumé, citrino o ialino. È considerata la pietra capace di donare una grande conoscenza e ristabilire la connessione con i piani più alti. Quarzo maestro canalizzatore, una punta a sette lati, una a tre lati, utilizzatelo per collegarvi agli spiriti guida, rappresenta la verità interiore e la manifestazione del divino dentro di noi. Quarzo maestro trasmettitore, è considerato un ponte, un mezzo da utilizzare per crescere e collegarsi al sé superiore, aiuta ad approfondire la verità, ad evolversi. Quarzo maestro finestra, il cristallo ha un'estremità, una faccia a forma di rombo. Da questa si estende un cristallo che ha sette facce ed è molto più grande della principale. Se la finestra è rivolta a sinistra durante la meditazione, vi permette di entrare in contatto con il vostro passato. Se è rivolta verso destra, invece verso il futuro. Quarzo maestro laser, uno dei primi quarzi maestro con il quale sono entrata in contatto. È lungo e sottile, lateralmente è curvo, mentre la punta è formata da tante piccole facce. Usatela per raccogliere le vostre energie, per focalizzarvi su un solo obiettivo. Usatela se avete bisogno di uno scudo. I professionisti lo utilizzano anche per lavorare sull'aura. Quarzo maestro elestiale. Può essere solo un quarzo fumé. Promuove la crescita interiore, purifica e armonizza, lasciando cadere tutto ciò che appesantisce l'animo. Usatela per vedere cosa vi ostacola, vi dona più fiducia in voi stessi. Ci sono molti altri tipi di quarzo maestro, ma sono molto meno conosciuti, come ad esempio l'iside, che stimola la tua guarigione, il quarzo maestro memoria, programmati per far sì che possa avvenire il passaggio delle conoscenze, e infine il quarzo maestro ponte, che aiuta ad affrontare il cambiamento. Molti di questi cristalli non sono facili da trovare e anche l'utilizzo richiede una certa esperienza nel mondo della cristalloterapia. Si tratta comunque di strumenti davvero eccellenti e in qualità di pietre molto particolari sono belle da avere anche solo per collezione. Con oggi è tutto e vi ho parlato del bellissimo quarzo maestro, ma prima di salutarvi vi ringrazio e vi lascio come sempre i nostri contatti. Il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono: Francesca 340-2345-340, Franco 329-89-89669, Elisa 339-3860-123. Ricordatevi di mettere anche un like alla nostra pagina Facebook e nell'augurarvi un buon weekend e ringraziarvi per averci seguito anche oggi in questa puntata, vi do appuntamento alla prossima e ringrazio e saluto Davide e Giorgio per la splendida opportunità.